escuchando la última rola. Ciao, io niente, avevo già acquistato il biglietto per andare a Genova. Sì. Però onestamente non so, dopo quello che è successo questa sera sono demotivato, cioè non avrei neanche più lo stimolo di andare, cioè sono convinto che gli episodi di oggi la facciano da padrone su quello che è il vero messaggio del movimento, cioè domani chi mi garantisce che questi non sono ancora in manifestazione e non inquinano le vere motivazioni, il vero messaggio? Così sono abbastanza pessimista, però non lo so, cioè era una chiamata per avere, non so, per essere rinfrancato, non so, degli ascoltatori che mi possono dare delle risposte, così che io domani mattina alle 6:15 mi trovi arrivare. Anch'io francamente ho dei timori, però ritengo che sia una ragione in più per andare. Più siamo a condividere questo ideale pacificamente, a voler manifestare per quei contenuti, e meglio sarà, e probabilmente meno ci sarà possibilità di scontri. Ci saranno sicuramente domani, perché l'esperienza insegna che il giorno dopo c'è anche la rabbia, e con un morto in mezzo, insomma, è chiaro che la rabbia c'è. Però io credo che dobbiamo essere in tanti con questi contenuti, proprio per dimostrare che in realtà noi vogliamo mantenere anche il diritto di manifestare le nostre idee. Ecco, poi non so, intendono proprio questo, cioè farci avere paura per non andare, per poi dire sono quattro gatti, quattro scalmanati, vengono qua a far casino, eccetera, stasera, eccetera. Stasera verso le 8:30 mi ha telefonato un ragazzino, un mio ex alunno, che non avrebbe dovuto venire a Genova perché i genitori avevano deciso che, insomma, sarebbe stato un po' pericoloso. Dopo quello che è successo oggi hanno deciso di venire domani con tutta la famiglia. Tristi, arrabbiati in modo sensato, però ci dobbiamo assolutamente essere, non possiamo, domani non possiamo non essere. Purtroppo a Genova non ci posso andare perché ho due bimbe piccole. Io credo che domani non solo dovrete essere in tanti, dovranno essere in tanti, ma di più, tantissimi, cioè non chiedo a questo ragazzo che vada per me. Soprattutto domani mia figlia è lì, è dentro allo stadio. È dentro allo stadio. Domani fa 20 anni. E visto quello che è successo, mi sa che piglio il treno. Sono sconcertato, proprio non ho parole. Effettivamente ti posso confidare di aver smesso di piangere pochi minuti fa e credo che continuerò a farlo. Sì, una notizia che ci ha appena dato il deputato dei Verdi Paolo Cento, che si trova a Genova e che si trova in questi minuti in questura. Voi sapete che fino adesso non è stata identificata la vittima. Si è parlato di un ragazzo di 20 anni, probabilmente spagnolo, ma ancora non ha un nome e un cognome. Allora, secondo il deputato dei Verdi Paolo Cento, la vittima è italiana, si chiama Carlo Giuliani ed è un ragazzo di Roma del 1978. Camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te va a guardar.